A domenica dopo una rozza sfaminata, Maria coronata per un'eternità, Maria coronata per Dio che rabbia, che bello tuo mazzetto, cacano lo tenivi, la loro chi partiti, che paradiso va, la loro chi partiti, che gridiamo viva Maria, viva Dio che la crea, che più felice deve degli amanti e dei grandi tanti ne abbiamo qui in vita. Abbiamo quindi età, gridiamo viva Maria, viva Dio che la crea, che tu venisi capire, corta da filo d'oro, Maria è un gran tesoro, che Dio che la crea, che bello suo mazzetto, quanti a mano lo tenete, la loro chi facite, chi in paradiso va, la loro chi facite, chi in viva Maria, viva Dio che la crea, che deve giù su mando per tutto stelli, stelli, e tu Madonna bella, tu sola mi puoi aiutare, e tu Madonna bella, viva Dio che la crea, sotto i vostri piedi c'è sta una mensa luna, tu sei regina e padrona di tutta la città, tu sei regina e padrona di tutta. Viva Maria, viva Dio che la crea.